dei 3000 siepi, vediamo che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo che va a prendere la testa. Vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, è ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori. Con questa vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Bentornati su Radio Wombat, è terminata la fuga del gatto, ora iniziamo noi con il nostro cronico ritardo, questa volta non tutto per colpa nostra, però inizieremo sempre a orario variabile, abbiamo deciso, tanto non si riesce, cioè l'altra volta abbiamo detto iniziamo alle 6:15, ma non è vero neanche questo, non possiamo continuare a mentirvi sempre. E quindi inizieremo in un orario variabile tra le 18 e le 19, perché se ci volete bene dovete anche un po', ci vogliamo fare un po' desiderare, ecco. Sì. Allora, questa volta abbiamo in scaletta un sacco di cose, più che altro molto corpose, quindi faremo un'altra delle nostre puntate noiosissime e estremamente logorroiche, ci candidiamo a essere la trasmissione più logorroica di Radio Wombat. Ai microfoni ci sono io, Gino, e Gine qua di fianco che ora saluta. Buonasera, ciao. E questa sera inizio io e in realtà volevo un pochino fare una cosa di ricerca antropologica, nel senso che mi è capitato tra le mani un interessantissimo libro uscito in realtà un paio d'anni fa, ma io sono lento a arrivare alle cose, che si intitola Ladri di Sport e riporta una serie di articoletti in cui due autori parlano di tante cosine legate allo sport, in verità molto molto spesso al calcio, e in una sera in cui non avevo tantissime cose da fare mi è caduto un occhio su un loro articolo che mi è sembrato molto interessante su l'omofobia nello sport. In realtà nell'articolo si parla quasi solo di omofobia nel calcio e in particolare su alcune affermazioni veramente interessanti di un sacco di personaggi del calcio italiano, anche grossi nomi, in cui si va a spiegare per quale motivo sostanzialmente il calcio non sia un ambiente adatto ai gay. E io ero curiosissimo di sapere per quale motivo e quindi ho cercato di approfondire. E non è stato semplice, non è stato semplicissimo perché sono molto sibillini, nel senso che non si va diretti all'argomento, ma ci guidano per una specie di via quasi esoterica, nel senso che ognuno aggiunge un pezzettino al puzzle e quindi prima di capire dove stava effettivamente il problema che precludeva ai gay il calcio, e ci ho messo un po', io ho dovuto passare da un sacco di affermazioni di grandissimi nomi dei protagonisti del calcio italiano. In particolare io ve ne ho selezionati tre, perché di tutti i milioni che ho dovuto leggere, perché ricostruiscono bene il percorso che ho dovuto fare per arrivare alla comprensione dell'arcano. Allora, il primo che è un po' introduttivo, cioè vi introduce un pochino alla tematica, è Marcello Lippi, che personaggione. E lui in un'intervista si esprimeva così, cioè faceva questa esternazione, no? Allora, non escluderei mai un gay dalla nazionale, per carità, perché se no poi ti dicono che sei stronzo. Allora, penso però che sarebbe difficile, per come siamo fatti noi giocatori, che un calciatore possa vivere la sua omosessualità in maniera naturale. E fino qua uno dice. Allora, diciamo, la parte che a me mi ha colpito, che mi ha condotto poi nel voler continuare la ricerca è: ma come siamo fatti noi giocatori? Perché è evidente che lui comunque diciamo, fa un pochino, diciamo, mette l'accento su una qualche predisposizione, se non genetica, almeno ambientale, dell'entourage, del mondo del calcio, qualcosa che è insito nella natura del calcio, no? E ho detto: che cosa sarà? E mi sono interrogato un sacco. Allora, io ho pensato: che cosa caratterizza il calcio rispetto ad altri sport? E ho iniziato a pensare, ho detto: boh, allora, come saranno fatti i giocatori? Sarà qualcosa che derivano dallo sport che fanno, no? Quindi ho detto: boh, sarà un problema tipo della palla che è tonda? E però non era soddisfacente, cioè non ho trovato una della cosa. Allora ho pensato: un'altra cosa che c'hanno ho pensato tipo a parti dell'abbigliamento, tipo, che ne so, le scarpe con i tacchetti. Cioè, le scarpe con i tacchetti potrebbero precludere ai gay il mondo del calcio, e no, non lo so, cioè, nel senso che uno dice: boh, cioè, se io vado da Marcello Lippi, poi dico, che ne so, te cammini con le scarpe con i tacchi, lui mi dice no. Io cammino con le scarpe con i tacchetti, perché non con i tacchi, perché sono mica gay. E poi questo un pochino mi aveva detto, mi ha messo sulla strada, però non era ancora la soluzione giusta. Non era la soluzione giusta perché in realtà Marcello Lippi è soltanto, secondo me, quello che ti introduce alla comprensione dell'arcano. Ma ben altri personaggi in realtà poi te lo spiegano meglio. Io in particolare sono stato veramente aiutato e quindi sono grato in qualche modo a Fabio Cannavaro, che mi ha messo finalmente sulla strada giusta per la comprensione della cosa. In particolare nella sua affermazione che dice: ognuno è libero di fare quello che vuole, e ci mancherebbe, no? Ma un calciatore omosessuale creerebbe imbarazzo negli spogliatoi. E allora lì ho iniziato a capire, perché la parola magica è spogliatoi. Nel senso che in tante altre frasi che trovavo relative a questo argomento si parlava sempre di spogliatoi. Allora io ho iniziato a capire, ho detto: cavolo, allora io mi devo focalizzare la mia attenzione per la comprensione di questa cosa negli spogliatoi del calcio. Cioè, se evidentemente gli spogliatoi del calcio non sono come gli altri spogliatoi, cioè hanno qualcosa di diverso, no? Che proprio nasce da quel particolare tipo di ambiente, evidentemente da quel particolare tipo di sport. E sono stato poi non ancora illuminato, però mi è servito come dire, come conferma della mia esatta intuizione, da un grandissimo del calcio italiano che tutti voi ricorderete, Gianni Rivera. Spero ne ricorderete anche la prestigiosa carriera politica, che l'ha visto prima nella Democrazia Cristiana, poi è transitato un pochino nell'Ulivo, poi è ritornato al centrodestra, ha anche appoggiato la Moratti alle elezioni di Milano, cioè ha fatto un sacco di cose nella vita, ha anche provato a entrare tipo come senatore, mi sembra, però non ce l'ha fatta, no, non ce l'ha fatta purtroppo. La sua carriera politica non è stata altrettanto brillante di quella come calciatore, però lui dice una cosa molto interessante che mi ha poi indotto finalmente al vero, cioè alla parte più misterica di questa questione, e con la frase: credo che un omosessuale farebbe persino fatica a entrare negli spogliatoi. Il calcio è un gioco troppo rude. E qui di nuovo si parla di spogliatoi e si parla di entrare negli spogliatoi, allora il problema sta lì. Allora, finalmente c'è qualcuno che ha fatto tantissimo per il calcio italiano, tutti voi lo ricorderete, il grandissimo Luciano Moggi. Lui finalmente spiega in una maniera un po' prolissa, perché loro erano veramente troppo, troppo criptici, troppo stringati perché io potessi veramente comprendere, qual è la problematica. Ora vi leggo questa sua lunga dichiarazione che spiega molto bene il tutto. Allora, non so se i calciatori siano contrari ai gay in squadra. Io sicuramente lo sono, è finalmente uno che prende una parte chiara, no? Ecco, non avrei mai voluto un giocatore omosessuale e anche oggi non lo prenderei, ma cioè, chi se ne frega. Sono un po' all'antica e qui si spiegano molte cose, perché comunque il calcio è uno sport all'antica, nel senso che è evidente che uno dei primi problemi è questo qua, no? Dell'essere all'antica, perché cioè, non è che cioè, i gay sono una cosa che c'era anche prima, no? Cioè, nel senso che tipo nel dopoguerra c'è stato, non lo so, tipo i Big Bubble, la Coca-Cola e poi gli omosessuali, ma è una cosa moderna. Cioè, se tu sei all'antica, non te l'eri posto problema perché non c'erano. Però ecco, lui, essendo un po' all'antica, conosce comunque l'ambiente del calcio perché c'è stato dentro parecchio. E al suo interno, non può vivere uno che è gay. Perché? Perché un omosessuale non può fare il mestiere del calciatore, lo ribadisce, no? Nel calcio non ci sono gay, né tra i calciatori né tra i dirigenti, che sia chiaro, ecco. E non è razzismo, perché infatti non ti ha detto negro di merda, ti ha detto frocio di merda, perché se era negro di merda era razzismo. Ma in quell'altro caso no, e quindi anche questa frase sua è incontestabile, non è razzismo. È un fatto di ambiente, e qui finalmente. Cioè, arriviamo, no? Perché è un problema di ambiente proprio, no? Cioè, il calcio è un ambiente particolare. E attenzione, finalmente la rivelazione si sta nudi negli spogliatoi. E qui lascio un attimo di silenzio, ma perché vi voglio far assaporare la profondità della frase, no? L'illuminazione per me è stata veramente illuminante, ma tipo San Paolo sulla via di Damasco, c'è cioè, stata proprio una. Adesso ho capito. Cioè, il problema non è la palla tonda, non è le scarpette coi tacchi, ma è che si sta nudi negli spogliatoi. Cioè, il calcio, effettivamente, io non lo so perché non sono tanto bravo a giocare a calcio, non ho mai giocato tanto in realtà, però effettivamente questo è l'unico sport al mondo in cui si sta nudi negli spogliatoi. Cioè, io ho praticato altri sport, ma no? Effettivamente tu negli spogliatoi c'hai la tuta da spogliatoio, non è che stai nudo, no? Cioè, anche quando vai a fare la doccia. Cioè, io per esempio c'ho la tuta, quella, la muta da sub. Per la primavera, quando fa un po' più caldo, no? Se sei più vicino al mare, così. Quando fa più freddo, per fare la doccia negli spogliatoi, uno si mette la tuta quella da sci. E, tipo, ad esempio, ci cioè sono proprio. Puoi mettere anche le pinne, perché comunque anche lasciare scoperto il piede è un po' strano, no? Allora ci sono le pinne, se no puoi metterti un boot, e comunque questo cioè, è come si fa normalmente, no? Ma non nel calcio, perché? Perché il calcio è uno sport di uomini all'antica, cioè che si rifanno direttamente all'antica Grecia, no? Laddove c'erano questi, non so se avete presente, no? Quelle, che ne so, il vasellame greco, i dipinti dove ci sono questi uomini nudi, unti di olio che fanno la lotta. Ecco, il calcio si fa un po', si rifà a questo tipo di tradizione, e quindi proprio è l'unico sport al mondo in cui effettivamente si sta nudi negli spogliatoi, e il problema è solo qui. E se è inquadrato in questo senso, allora si capisce che non è un problema di razzismo, no? E cioè che d'altra parte si sta nudi negli spogliatoi e non cioè, non so, tutto assume un senso in qualche modo. E qui volevo appunto chiedere una conferma, se la mia intuizione era esatta, almeno una conferma su questa particolarità del calcio, a Gine che pratica il calcio, e appunto volevo approfittare della sua presenza, perché io appunto ne so poco dell'ambiente, e volevo chiedere, ma quindi è vero che negli spogliatoi di calcio si sta effettivamente nudi? Effettivamente è così in altri sport, per esempio il pugilato, io tendo anche a fare la doccia con i guantoni, mentre nel Fai bene. calcio, entrando nello spogliatoio, c'è quasi una selezione all'ingresso, per cui nudo entri, vestito non puoi. È pazzesco. Cioè, è pazzesco, ma se sei inserito in questo contesto, allora è tutto chiaro ed evidente. È tutto chiaro. È tutto chiaro. E quindi niente, volevamo dedicare un pezzo a questi grandissimi del calcio italiano. È un pezzo dei Chumba Wamba che si intitola Omofobia, ed è un pezzo che a loro volta i Chumba Wamba dedicano alla squadra del San Paoli, che che invece è questa tifoseria strana che fa campagne contro l'omofobia, ma perché? Perché loro hanno rinunciato a questa cosa della nudità degli spogliatoi. Cioè, San Paolo stanno a nord e Non si fanno c'hanno. la doccia, non se la fanno proprio, hanno ovviato. Ah, tu dici, non c'hanno le tute da Sì, sci? no, no, secondo Non. me Scusa, non. Beh, te ne sai più di me, e quindi c'è del se ne. primitivismo vero. Hanno detto no alla doccia. E per questo si possono permettere di essere anti-omofobi, ma soltanto per questo, perché se poi uno si confronta con i problemi reali della nudità dello spogliatoio, cioè è evidente che non è un problema di razzismo, no? È evidente. Infatti. E allora ciamba wamba. But if we're to have a perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Up behind the bus stop, in the toilets of the street, there are traces of a killing on the floor beneath your feet. Mixed in with the piss and beer are bloodstains on the floor from the boy who got his head kicked in a night or two before. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. In the pubs, clubs and burger bars, breeding pens for pigs. Alcohol, testosterone and ignorance and fists. Packs of hunting animals roam across the town. They find an easy victim and they punch him to the ground. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. Homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these. The siren of the ambulance, the deadpan of the cops, chalk to mark the outline where the boy first drops. Beware the Holy Trinity, church and state and law. Forever in death the virus gets more deadly than before. Ciambawamba con omofobia e quello di cui vi abbiamo parlato prima, cioè questo arcano dell'impossibilità per i gay di fare parte, diciamo, del mondo del calcio professionistico e non italiano, era in realtà una delle suggestioni tratte da un libro, si intitola Radio di Sport, di Agenzia X, che è uscito nel 2014. I due autori sono Ivan Grozny e Maurizio Valeri, ed è una serie. È una raccolta di articoli. Ho fatto la precisazione perché prima l'avevo citato ma non detto per benino. Adesso volevo mettere in realtà un altro pezzo perché i Chumbawamba hanno questo che fanno dei pezzi molto belli che abbiamo già fatto sentire altre volte, però sono tutti molto corti e non è una vera pausa così, cioè noi non ci sa tempo di prepararci a fare niente. E allora volevo farvi ascoltare un altro pezzo sempre più o meno a tema. Ed è un pezzo questa volta degli Angelic Upstarts che dedicano un pezzo anche loro alla tifoseria del San Paoli che si intitola Streets of San Paoli. E quindi altra pausetta musicale e poi torniamo e la Gine vi illuminerà su un argomento che ci è stato a cuore in tutte le altre puntate, cioè sulle Olimpiadi Popolari del 1936 in Spagna. Thank you. to hell spells on the field of their dreams. Let the flags fly high and you'll hear the battle cry of Saint Pauli. We're gonna party all night long on the streets of Saint Pauli. But the villain Angelic Upstairs, e possiamo cominciare la puntata sulle Olimpiadi Popolari. Ricordiamo che oggi 20 novembre casca l'80° anniversario dalla morte di Buenaventura Durruti, che brevemente è stato un anarcosindacalista ricordato spagnolo, ricordato per sia la fervida attività sindacale con la CNT e sia nell'attività di contrasto alle truppe franchiste durante la guerra civile spagnola. Durruti muore appunto il 20 novembre del 36 a 40 anni. La tesi più avvalorata ad oggi è quella di un colpo accidentale partito dal suo fucile scendendo dal predellino di un'auto, e ci sono altre teorie più o meno complottiste, ma insomma non ci interessa al momento. E possiamo cominciare la puntata di approfondimento sull'Olimpiada Popolare. Innanzitutto ringrazio il contributo di un compagno archivista che ci ha fornito un po' più di fonti, visto che eravamo un po' sperduti le prime puntate, e ascoltiamo un pezzo dedicato a Durruti, a Scaso e Oliver. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses no fue por casualidad. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turrubi, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. E cominciamo la nostra storia sull'Olimpiada Popolare. Allora, facciamo inizialmente un breve quadro di quello che è la situazione spagnola, perché bisogna un po' orientarsi nelle date. Allora, nel 1870, la Spagna ha una monarchia costituzionale che è retta da Amedeo di Savoia, che nel 1873 abdica e nasce così la prima Repubblica Spagnola. Nel 74 invece si torna indietro, si torna alla monarchia con la restaurazione borbonica fino al 1931, anno invece in cui viene proclamata la Seconda Repubblica, che dura fino al 1939, anno dell'instaurazione del regime franchista e che ci siamo tirati dietro fino al 1975. Nel 31, quindi appena proclamata la Seconda Repubblica Spagnola, il Comitato Olimpico doveva riunirsi a Barcellona e decidere quale città avrebbe ospitato i Giochi Olimpici che si sarebbero svolti nel 1936. Città candidate: Roma, Berlino, Budapest, oltre che appunto la stessa Barcellona. Nonostante che la capitale catalana offrisse un nuovo stadio e delle strutture anche più o meno recenti costruite nel 1929 per l'esposizione universale, molti membri del Comitato Olimpico boicottarono l'iniziativa, la riunione, insomma, non presentandosi. Venne dunque scelta Berlino come città per ospitare i Giochi Olimpici nel 1936 e ricordiamo che nel 1931 Berlino era la capitale della Repubblica di Weimar, perché Hitler sale al potere nel 1933. Hitler, quindi la città è già assegnata, Hitler intuisce molto bene il potenziale propagandistico dei Giochi Olimpici, tant'è che sono le prime ad essere trasmesse in televisione, sono preparate delle coreografie imponenti che vengono immortalate in un film, Olimpia, un documentario di 4 ore, che vanta tecniche avanzate come la telecamera a fianco degli atleti e questo, insomma. Io l'ho visto. Te l'hai visto? Anch'io ho dei pezzi. Io l'ho visto. Penso di averle visti, sì. Cosa ci dici? Da tutti sti corpi, tutte ste... Bello. Per Hitler quindi diventa un momento di esaltazione della competitività tra nazioni, volta comunque, come avevamo già accennato volte precedenti, ad affermare la superiorità. È una sorta di conflitto senza armi, una guerra a son di medaglie, e che nel pubblico può rafforzare il sentimento nazionalista. E questa è la situazione che abbiamo, diciamo, seguendo la traccia ufficiale delle Olimpiadi. In Catalogna invece negli anni 30 lo sport viene vissuto diversamente. I primi club sportivi infatti nascono in seno a delle organizzazioni operaie e nei centri culturali per l'emancipazione della classe lavoratrice. E, tant'è che questo substrato, in qualche modo, partecipativo, fa in modo che Barcellona sia la città scelta per organizzare un evento contro le Olimpiadi di Berlino. E diciamo, il momento in cui viene presa la decisione, ecco l'emanazione delle... Non è l'interrogazione, non vai, è l'interrogazione. Puoi sbagliare. Ecco le... no, no. Tanto non lo sanno, di quello sono, che vuoi. Mi sono un attimo spenta, no. In realtà il momento in cui viene scelto di fare un evento sportivo contro le Olimpiadi di Berlino è con l'emanazione nel 35 delle leggi di Norimberga, che sono leggi discriminatorie appunto verso gli ebrei, e concretizzano in qualche modo la possibilità dell'esclusione dai giochi per motivi razziali. Vedremo poi magari in altre puntate in realtà che molti atleti ebrei hanno partecipato poi alle Olimpiadi di Berlino, spesso anche con la minaccia di poter perdere la vita se avessero perso, ma di questo parleremo in altro momento. Si crea quindi un movimento di boicottaggio internazionale. La Francia fonda la Fédération Sportive de Gauche, mentre in Olanda un collettivo di artisti fonda De Olimpiade Onder Dictatur, e negli Stati Uniti anche la Committee on Fair Play in Sports. Sono commissioni che si spingono a chiedere il ritorno ai valori iniziali delle Olimpiadi del barone di Coubertin, che comunque le intendeva più o meno come un incontro tra popoli in segno di fratellanza. E, dici sempre meglio di Hitler. Sì, poi in realtà... Sì, a noi non piace lo stesso, a noi ci sta antipatico De Coubertin. Però queste commissioni chiedevano questo, ecco, c'era fratellanza dei popoli, non c'era solo questo, però... No, vabbè, non è che sono contrario, lo buttavo lì così, come elemento di critica. Quindi, invece i catalani favoriscono la nascita delle Olimpiadi Popolari attraverso il Comitè Català Pro Esport Popular. E ora vi mettiamo un pezzo, questo è Duke Ellington, Take a Train. Thank you. Eccoci ancora su Radio Wombat a parlare dell'Olimpiada Popolare. Abbiamo visto come il movimento internazionale di boicottaggio alle Olimpiadi ufficiali di Berlino del 1936, insieme al Comité Català Pro Esport Popular, abbiano organizzato le Controlimpiadi che si sarebbero dovute svolgere in Spagna, a Barcellona, nel 1936. E andiamo un po' più nello specifico di come erano state organizzate. Allora, intanto il Comité Català fa un appello ai catalani per ospitare gli atleti, quindi si parla di un evento di carattere comunque internazionale, che dovevano però essere disposti a pagarsi il viaggio. Infatti il pezzo di Duke Ellington prima era Take the A Train, e come A, che sarebbe per il treno anarchico per la Catalogna, però te lo devi pagare, non è che ti spesiamo, cioè ci devi mettere i soldi tuoi per andare in Catalogna. E la risposta internazionale è di grande successo, perché circa 6.000 atleti di 23 differenti delegazioni sono disposti a partecipare alle Olimpiadi Popolari. Ci sono degli elementi di novità ovviamente rispetto alle tradizionali Olimpiadi. Allora, vediamo intanto la possibilità di partecipare come delegazione regionale e quindi non solo nazionale, per cui ci sono squadre della Catalogna, i Paesi Baschi, la Galizia, e in più la possibilità di partecipare come delegazione di stati non riconosciuti, e quindi Algeria, Palestina, Alsazia, ebrei emigrati, e che insomma in quel momento erano abbastanza perseguitati, e in più un'incentivazione alla partecipazione femminile. E qua apriamo una parentesi, perché il buon vecchio De Coubertin in realtà osteggiava le donne sport sono ridicole. Sì, invece pare che per le Olimpiadi Popolari molte federazioni femminili risposero all'appello. La stima è difficile, perché nei documenti la parola atleta non indica il sesso, e quindi più o meno si stima che sui 1500 atleti francesi che si presentarono, circa 100 fossero donne, mentre del Canada sappiamo che su 6 atleti 5 erano donne. E si registra la presenza femminile in squadre quali l'Algeria, la Palestina e gli stessi ebrei emigranti. Allora, ricordiamo che siamo nel 31. No, non eravamo nel 36. Eravamo nel 36, ma nel 31, quando comincia il fermento di preparazione anche per le Olimpiadi Popolari, arrivano delle sovvenzioni ufficiali, però solo perché vengono esercitate delle forti pressioni da parte di tutti i comitati che abbiamo visto prima. E tant'è che sia Francia che Spagna in realtà sovvenzionarono anche le Olimpiadi ufficiali di Berlino. E quindi era un po' più per evitare una figuraccia internazionale che altro, insomma. E l'organizzazione. Allora, si registrano 16 discipline sportive, quindi abbiamo oltre alle classiche atletica, calcio e lotta, il ping pong, gli scacchi e la pelota basca, che è uno sport molto in voga nei baschi, confermo. Non l'ho mai vista, a parte dei muri che si trovano quasi ovunque nelle città dei Paesi Baschi, non ho mai avuto la possibilità di vederla, però ci interessa. È una cosa molto anni 70, non lo so, io la leggo agli anni 70. Negli anni 70 si giocava alla pelota basca, l'ho vista nei film, credo. Era Bud Spencer, io me lo ricordo in Bud Spencer. Stavo per dirlo anch'io, ma volevo che tu dicessi questa cosa, perché Bud Spencer è ambiguo, è quello lì. Non... E tra le innovazioni... ce n'è anche una che riguarda le categorie, infatti la possibilità di partecipare viene data su gare di 3 livelli, e quindi anche amatoriale. E questo è indice di un grande allargamento e anche in qualche modo che non valorizzi semplicemente il professionismo e l'agonismo spinto che si trova classicamente nelle gare. Inoltre erano previste delle esibizioni dell'aviazione non motorizzata e di ginnastica e manifestazioni folcloristiche sia catalane che internazionali. Erano previsti balli scozzesi, il teatro popolare svizzero, c'era un gruppo folcloristico marocchino e delle esibizioni tirolesi dall'Austria. Torniamo al 36. Le Olimpiadi dovevano cominciare il 20 luglio. Il 19 luglio, però, col golpe militare franchista, iniziano 3 anni di guerra civile in Spagna. E il popolo catalano risponde all'insurrezione militare con armi e barricate. E abbiamo, vi leggo brevemente una dichiarazione di un atleta belga. Quindi gli atleti, quei 6.000 atleti, sono tutti a Barcellona durante il golpe franchista. E si sono pagati il treno da soli. Torniamo alla dichiarazione dell'atleta belga. Allora, le strade sono vuote sotto un sole cocente. Nella piazza del commercio ci imbattiamo nelle prime barricate. A centinaia di metri vediamo dei sindacalisti armati. Le barricate appaiono ogni 100 metri. Tutte le vie laterali sono bloccate. Sgusciamo lungo le facciate delle case. Le pallottole fischiano attraverso la piazza. Istintivamente pieghiamo la schiena e ci rifugiamo in un'entrata. Vediamo chiaramente come dal campanile della chiesa i cecchini sparano alla schiena ai lavoratori che si trovano dietro le barricate. E questo è il motivo per cui l'Olimpiada Popolare non poteva mai cominciare. Però il fatto interessante è che alcuni atleti, e anche qui le stime più o meno parlano di circa 200, restarono a combattere entrando nelle milizie antifasciste. Scusa, hai pagato il treno per arrivare fin là e non combatti? Esatto. No, soldi speso. E quindi sono i primi stranieri che volontariamente si uniscono alla lotta contro il fascismo internazionale. E c'è una dichiarazione che non so da chi è stata fatta, è citata negli articoli, che dice: eravamo venuti per sfidare il fascismo in uno stadio e ci fu invece data l'opportunità di combatterlo. E con questo ne mettiamo un pezzo dei Non Servium Antinazis. Da sempre è intentato auto-educarmi a conciencia para tener todo lo que no es mi enemigo. Disputadas mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Desde siempre he distinguido lo que diferencia a nuestra gente de las malas y los cambios. Construyendo una familia basada en la confianza y en el respeto de quien son los nuestros. Mirada de impotencia, todo el sudor que derramaste fue en vano. Que las hostias repartidas han perdido su sentido, dejando a un lado lo que está por allá. ¡Sí! no recuerda que somos antinazis. Seguiremos peleando una vez más, sin olvidar quién es nuestro rival. Escucharemos la voz de nuestro interior, que nos recuerda que somos antinazis. Orgullosos del anticonformismo que llevamos grabada en el corazón. Y es que nunca nos arrepentiremos de quien somos, fuimos y seremos. ¡Non servium! ¡Non servium! Eccoci ancora ai microfoni di Radio Wombat e si è conclusa la storia delle Olimpiadi Popolari. Siamo riusciti a rintracciare l'articolo del manifesto che in realtà ci ha mandato questo compagno archivista e ringraziamo sentitamente. E è un articolo del 2008 e era l'articolo da cui noi alla fine trovavamo tutte le cioè in internet si trovavano articoli che si rifacevano a questo articolo, ma non trovavamo l'articolo e quindi ora lo abbiamo. È un articolo del 2008 intitolato L'utopia dell'Olimpiade Popolare e niente, noi lo metteremo nella nostra pagina di 3000 Siepi, così che sia consultabile da tutti. È un articolo scritto molto bene ed è molto interessante. E quindi voi domani andate su wombat.noblogs.org e ci saranno i podcast delle puntate precedenti e anche l'articoletto con quello dell'ultima puntata, con addirittura l'articolo del manifesto in cui si parla dell'Olimpiada Popolare. Che lavorino, eh? Di fino. E volevo mandare un pezzo, visto che ormai è diventato il mio spazio discodedica dopo la playlist for runners, ormai dedico pezzi a chiunque, e oggi voglio dedicare un pezzo a Sara per i suoi 35 anni, e quindi le dedichiamo un pezzo di Nick Cave con PJ Harvey, a Henry Lee, che sono il top del top per lei e quindi glielo dedichiamo volentieri. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird looked down on Henry Lee. I can't get down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against defense just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands, come take him by. Eccoci, scusate l'attimo di silenzio, ma il pezzo finiva con tipo 20 minuti di silenzio e ci ha ingannato. Allora auguri ancora a Sara con questo pezzo di Nick Cave e PJ Harvey, che è una botta di vita. E coraggio, comunque 35 anni si compiono una volta sola, e come anche tutti gli altri compleanni, e quindi forza. Ora andiamo avanti con gli aggiornamenti. Abbiamo deciso di dedicare questi ultimi minuti di trasmissione a sostanzialmente a farvi delle cose che non c'entrano niente con lo sport, perché ci va così. Perché è importante, ma bastava anche dire solo che ci va, cioè i microfoni sono nostri, che ci frega, noi diciamo quello che vogliamo qua. No, un momento serio, anzitutto volevamo dire che si è concluso alla prima udienza del processone che coinvolge 86 imputati fiorentini, si è conclusa in una maniera per certi versi buona, per altri pessima, cattiva, la cosa buona è che è caduta l'accusa di associazione a delinquere. In compenso ci sono state un sacco di condanne per i fatti specifici, anche pene tra un anno e mezzo di carcere, che non è poco considerato. Due anni al massimo. Abbiamo anche due anni. Ecco, si va a salire sempre più in alto. E che considerate l'entità dei fatti contestati, che erano per lo più fatti di piazza o cose così, due anni è qualcosa di comunque preoccupante. Questo era il primo grado. Chiaramente la vicenda andrà avanti e con dei tempi più o meno lunghi, quindi noi vi aggiorneremo ogni tanto, non spesso, probabilmente il prossimo aggiornamento sarà tra 6-8 mesi, ecco. E l'altra cosina che volevamo dare come appuntamento era un corteo a Roma, il 26, è un corteo contro la violenza sulle donne e è stato promosso da un coordinamento che si vede da un po' di tempo, si chiama Nuno di Meno, e sarà il 26 pomeriggio a Roma. Ho un dubbio sul pomeriggio. Spero di non aver detto una cavolata, se poi al mattino non vi arrabbiate, sapete, comunque 26, Roma, non una di meno. E vi lasceremmo con un pezzo quasi a tema, che avevo selezionato da mettere in realtà prima, nella prima parte della trasmissione, ma poi, visto che abbiamo fatto questa mini dedica degli appuntamenti e degli aggiornamenti sulle sfighe a fine, e l'ho lasciato in chiusura. È un pezzo preso dal film Pride. In realtà il pezzo è un canto di lotta storico diciamo dell'epopea femminista. Il pezzo è Bread and Roses nella propria versione del film, e quindi ci sono anche le vocine del film. E vi Victory to lascio. the miners! That a sudden sun discloses for the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children. Finisce qua la puntata di 3000 Sefi, ci sentiamo domenica prossima, cercheremo di essere puntuali per le 6:15 e saluti anche da Gino che ha detto io ho già salutato, salutameli te, quindi saluti anche